Buongiorno William, niente più nuvole oggi a Bologna, goditi il sole e ricordo, è veramente esemplare, non sbaglia un colpo Facebook, le previsioni sono perfette e poi, chiaro, basta guardare fuori dalla finestra, ti dà tutto ciò in tempo reale, per cui sono capaci tutti, mentre invece di alzare il sipario sui 103.1 con il Breakfast Club, in pochi, siamo in due, siamo io e Erika Verdecchia che ritorna sui 103.1, buongiorno Erika con un look di altri tempi, come stai? Un look di altri tempi. Buongiorno William, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici. Sto bene, mi sto rimettendo da questa raffreddatura di mezza stagione. Che non si capisce niente poi con sto tempo, è chiaro che un attimo prendere il famoso colpo d'aria, però vedo che con questa protezione ulteriore sul capo, questa crocchia, peccato che non si può vedere sui 103.1, metteremo delle foto a corredo di tutto ciò, perché secondo me anche l'occhio vuole la sua parte. Siamo a teatro, stiamo al sipario, teatri di vita, a seguire ITC Teatro. Abbiamo iniziato ridendo e scherzando come ci confà tra me ed Erika, ma facendo un salto indietro nel tempo, le condizioni e i contenuti che andrà a presentare a Teatri di Vita Renato Sarti in regia e Debo Storti sul palcoscenico sono tutt'altro che allegri. Di cosa si tratta, Erika? Allora, si tratta dell'ultimo spettacolo che chiude quindi la rassegna di tutta l'erba un fascio di Teatri di Vita, una rassegna che durante la seconda parte della stagione teatrale 2017-2018, quindi quella di quest'anno, si è dedicata proprio alla narrazione teatrale della resistenza e dell'antifascismo. E lo spettacolo in questione si chiama Mai Morti, è uno spettacolo, come hai ricordato, per la regia di Renato Sarti e per ruolo protagonista Bebo Storti, e proprio Bebo Storti si esibirà sul palco e letteralmente si metterà i panni di un nostalgico fascista violentissimo, tra l'altro convinto, arrabbiato, in una realtà distopica ai giorni nostri, ma che al contempo vede un viaggio nel tempo con le cose peggiori, con tutti gli aspetti più cruenti, con gli episodi che andrà a raccontare lo stesso Sarti, che abbiamo contattato per una breve intervista di presentazione per lo spettacolo, che fra l'altro è andato in scena ieri. Sì, è andato in scena ieri, però andrà in scena anche questa sera e domani sera. Quindi abbiamo gli appuntamenti per il weekend e cade perfettamente. Conclude la stagione antifascista di Teatri di Vita, intitolata Di tutta l'erba un fascio. Già l'idea, insomma, che ha voluto dare Stefano Casi è molto chiara. Realizzata in convenzione con il Comune di Bologna, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e la Fondazione Dal Monte. Per quanto riguarda la cultura, per quanto riguarda l'approccio artistico a proposito della realtà di non abbassare mai la guardia, fondamentale riuscire a portare questi contenuti, seppur non certo leggeri, ma come dicevo, di importanza fondamentale, visto l'aria che tira, Erika. Esatto. Sì, non è certamente un momento di nostalgie e di aspetti quanto mai di revisione. Sentiamo le parole di Renato Sarti, perché già dal titolo Mai Morti, ma cos'è? Chi erano? Sentiamo quindi di cosa si tratta e perché questo titolo. Mai Morti è stato un famoso battaglione della decima MAS che operò nell'immediato dopoguerra, durante la guerra, durante il fascismo, con sedi dalla Spezia a Trieste, a Venezia, a Como, a varie città, Conegliano Veneto, eccetera, però anche nel Piemontese, Cugnia, eccetera, eccetera, ed era una delle più famigerate formazioni fasciste, prima e dopo Salò. Circostanziste, dico anche per feroce, nel senso che per esempio Conegliano Veneto c'era un castello chiamato da gente del luogo, il castello dalle urla strazianti, e a Cournier, caserma, combinazione, si chiamava Pinelli, che non ha nulla a che fare ovviamente con l'anarchico di cui sappiamo le vicende del 69, dove un certo tenente Bertozzi si caratterizzò per torture di una ferocia spaventosa, ecco. In realtà il testo non parla solo della decima bass, ma diciamo così, all'interno del suo percorso parla di, attraverso la voce di uno che si professa nostalgico dell'impresa del ventennio, che si risveglia in una notte milanese. Questo era il mio incubo, continua ad essere un po' un incubo, nella notte di milanese intorno ai 2000, nel torpore notturno si capisce che si è addormentato guardando delle immagini di Piazza Fontana, e quando si risveglia all'inizio è a letto con una vestaglia, poi man mano si toglie la vestaglia, si mette la maglietta della decima mass, i pantaloni, la giacca, e finisce poi alla fine con un cappello, con un caschetto, un basco, e si veste a tutto punto la decima mass, inneggiando Sig Heil. E nel frattempo, in questo suo risveglio notturno, visto che in questo periodo per lui è un po' difficile menare le mani come faceva ai tempi, si rifugia ricordando episodi a lui sacri, cari, lontani, e qui ci sono tutta una serie di elenco di realtà con cui, situazioni in cui il fascismo ha espresso, diciamo, il peggio di sé. Inizia dal piccolo teatro di Milano, dove c'era la sede della Legione Autonoma Ettore Muti, dove mentre si facevano i film piano sotto, il piccolo teatro di Milano, quello di Via Rovello, è sottoterra, film con Alida Valli, con il film dei Telefoni Bianchi, cioè la gente andava a cinema, in quel periodo lì si chiamava cinema Broletto. All'ultimo piano si torturavano i partigiani e chi si opponeva al regime. E c'è un elenco di torture, tutte prese naturalmente, documentate da processi, ci siamo inventati nulla, ed è stata una specie di assaggio di quelle che erano le nefandezze di cui si sono macchiati queste formazioni. Immediatamente dopo si parla dell'esercito italiano che ha fatto uso dei gas in Africa e le opere che ha compiute da Rodolfo Graziani. Immediatamente dopo si parla proprio di Corneliano Veneto, il castello delle Gula Stazianti, poi di Cournier, e finisce inneggiando un po' a Genova quello che cantavano alla caserma Bolzaneto i poliziotti: 1, 2, 3, vogliamo Pinochet, 4, 5, 6, Marte gli ebrei, 7, 8, 9, il negretto non commuove, 1 di meno, ancora un Carlo di meno. Non poteva mancare all'interno di questa ricostruzione tutta una serie di altri elementi, fra i quali una ricostruzione fatta a modo suo, ovviamente, da questo nostalgico della strage di Piazza Fontana. Ecco, tutto questo per spiegare, per cercare di far capire, un'ora e un quarto, lo spettacolo non dura di più, ai ragazzi soprattutto, che il fascismo è stato un crimine, sono stati dei criminali innanzitutto, e ricordare che l'antifascismo è ancora una parola che ha un profondo significato di esistere nel nostro paese. Walk this earth on equal conditions. Io non ho dubbi, ma vi auguro che le vostre notti, le vostre dormite siano popolate non da questi incubi, ma da sogni molto molto molto più belli. Spesso chiacchieriamo, no, quando ci richiama ai concerti, ma il sogno di cui Valeria è una grande interprete. Sì, sì, sì. Valeria ne sa tantissimo. Del mondo onirico, di tutto ciò che può essere esoterico, astrologia, astronomia non lo so, però astrologia forse più astrologia più informata. Beh, gli ho dato un millantato dei titoli, magari che chissà, un domani non dovrebbero più esistere queste realtà legate alla xenofobia, al razzismo, dalla divisione, all'allontanamento, alla ghettizzazione, a muri che si alzano in continuazione. La denuncia che arriva da Teatri di Vita è assolutamente importante, ma tutta la rassegna è un titolo molto bello, secondo me, nella sua contraddizione, insomma, colpisce molto. Andiamo sul palcoscenico, con chi andiamo, Erika? Andiamo sul palcoscenico con Bebo Storti, che è appunto l'attore protagonista, un attore che ci stupisce un po', perché magari lo ricorderemo come un attore comico, cioè lo sappiamo comico, e invece la sua potenza sul palco si manifesta anche in un ruolo più tragico e più d'impatto come questo qui. Più violento. Più violento, perché sì. Come sentiremo nell'ultima parte di intervista a Renato Sarti, delle volte, anzi, può capitare in maniera così inaspettata che l'attore che conosciamo vicino alla farsa, all'ironia, all'aspetto comico, quando poi si cimenta nella prestazione più intensa, più tragica, più drammatica, diventa coinvolgente allo stesso modo, se non di più addirittura. Anzi, lui stesso dice: beh, ci sono dei momenti in cui Bebo fa veramente paura. Sì, sì. Sì. E giorno d'oggi, G8 a Genova, giorno d'oggi la strage di Piazza Fontana, l'aumento del razzismo sempre presente, purtroppo gli episodi di xenofobia e il viaggio nel tempo delirante di nostalgia di questo personaggio. In questa parte invece di intervista con Renato Sarti, beh, già dal titolo, ma soprattutto come è nata questa idea, e non è la prima volta che va in scena, tra l'altro. No, non è assolutamente la prima volta che va in scena, è uno spettacolo infatti che è stato ideato a fine anni 90 e quindi è dal 2000 che viene riproposto. Lo spettacolo nasce nel 2000, perché nel 2000, 1999, in quel periodo lì fra Bossi, Fini e Berlusconi, che vabbè, poi qualcuno si è redento, ha cambiato, l'impatto con l'istituzione li ha costretti a cambiare, però io mi ricordo benissimo queste manifestazioni che facevano qui a Milano in corso Buenos Aires, e il clima era assolutamente forcaiolo, nei confronti dei migranti ovviamente, ma nei confronti dei alcolizzati, degli zingari, non ne parliamo, eccetera eccetera. Quindi quella destra, quei motti che venivano fuori, ricordiamoci Borghezio che faceva comizi in giro per l'Italia mentre la folla sottostante al palco urlava ai forni, ecco, il clima era un po' quello. Quindi questo personaggio si risveglia in una situazione assolutamente diversa dal tempo di origine, quindi hai detto con più difficoltà a menare le mani, però purtroppo vediamo degli episodi che testimoniano invece una certa facilità, purtroppo, e una nostalgia. Sì, no, beh, quotidianamente noi assistiamo a lapidi dedicate agli ex deportati spaccate, alla pietra d'inciampo qui a Milano, che hanno anche quella appena posata in opera, e giorni dopo l'hanno divelta, sporcata, incazzata, al monumento dei deportati degli operai di Sesto, il Parco Nord di Milano, e così in tutta Italia, dappertutto. Beh, la cosa di Anna Frank, no? Cioè che i tifosi della Lazio hanno fatto quello sfregio nei confronti di Anna Frank. Episodi, qualcuno li considera marginali, no, io considero che siano la punta di un iceberg ben più vasto e ben più inquietante. Io faccio parecchi incontri, non ho tanto tempo, però ogni anno mi serve un periodo di fare incontri, seminari di teatro, però tramite il teatro parlo anche di queste cose qua, della storia e del nostro paese, e mi accorgo che fra i giovani, diciamo così, ma sì, il fascismo non è che abbia fatto tanto male, insomma ha fatto anche delle cose molto belle, quindi no, cosa hanno fatto i comunisti invece? Cioè c'è un clima generale in questo paese che è molto molto preoccupante, diciamo che la voce ferma di Mattarella quando disse quel discorso che ha fatto qualche mese fa in occasione della giornata della memoria, se non sbaglio, della memoria, è importantissimo, cioè si sono macchiati di nefandezza, e dire sì, però hanno fatto anche delle cose, no? L'agropontino hanno bonificato, non significa altro che cercare di celare l'aspetto più terribile. Cioè, non è un incidente di percorso la deportazione degli ebrei, è una cosa strutturale, è il loro modo di pensare, il loro modo di vivere, il loro modo di agire. E quindi ben venga che la nostra Costituzione abbia posto dei paletti, però bisogna tenere la guardia bene alta, stare bene allerta, perché purtroppo io penso che il clima in generale non sia tutt'altro che favorevole. Con i nuovi governi che ci arriveranno, torno a ripetere, l'impatto con le istituzioni da parte dei vari Salvini, dei vari fascisti, Forza Nuova, comunque li costringe a tirare i remi un po' indietro, perché non puoi andare alla Camera a inneggiare al fascismo, non lo puoi fare, per fortuna. Quindi diciamo, i vari Borghezio, i vari Bossi, eccetera, eccetera, tutti questi qua si sono dati una calmata, fini stessi, avete visto, è diventato quasi un compagno, no? Ecco, però bisogna stare molto, molto, molto attenti. Love is harmony, love is peace. Love is harmony, love is peace. Love is harmony, love is peace. Love is harmony. Sportivo ultimamente su un argomento che è tuttora presentissimo sulla partita della Juventus. Ti ho visto partecipe in maniera molto, non mi aspettavo questo, ma tu hai chiarito, hai detto volevo, per così dire, essere anch'io partecipe e soprattutto esatto. Conoscere cosa poteva scatenare questa affermazione. Esattamente, sì, soprattutto da parte dei miei amici che sanno perfettamente che io di calcio non ne so nulla e non me ne sono mai interessata, perciò volevo scatenare la loro curiosità, diciamo così. È un'analisi antropologica. Sì. Hai capito? Parte dal basso. Parte dal basso, esatto. E sono gli aspetti che poi quando vengono estesi danno vita a delle cose quanto mai preoccupanti, perché come tu sai, nelle curve purtroppo si inneggia molte volte a queste nostalgie, citato anche da Renato Sarti con Anna Frank, l'episodio dei tifosi della Lazio che hanno avuto la splendida idea di ritrarre la ragazza finita nei lager nazisti con la maglia degli avversari, una cosa veramente becera, veramente tremenda, un motivo in più per non abbassare la guardia davanti a queste cose. 8:26 minuti, siamo arrivati alla conclusione, un motivo in più proprio perché è diventato quotidianità, è diventato invasione in ogni situazione, è diventato luogo comune parlare in un certo modo, a volte nemmeno ci si accorge di fare affermazioni che sono quanto mai reazionarie, e purtroppo più passa il tempo più tutto ciò è su un palcoscenico triste, un palcoscenico di denuncia. Invece Teatri di Vita, quando abbiamo lo spettacolo, è andato in scena ieri. Sì, esatto, è andato in scena ieri, ma sarà in scena anche questa sera alle ore 21 e poi domani sera, quindi sabato, alle 20. Sentiamo le parole di Renato Sarti in conclusione prima dello stacco pubblicitario, poi andremo a conoscere un appuntamento curato da ITC Teatro. Le ultime parole per quanto riguarda questa nostra intervista di presentazione, ci propongono e ci fanno conoscere questo attore di cui noi prima vi abbiamo dato così un'anteprima, cioè Bebo Stort. Chi sarà sul palcoscenico? Beh, lo spettacolo è nato fin dall'inizio nel 1999, nel 2000, la Maratona di Milano, una rassegna che era stata organizzata da quello che adesso è il direttore artistico dello Stabile di Roma, Antonio Calvi, Oliviero Ponte di Pino, che per chi bazzicano il teatro, chi bazzica il teatro conosco molto bene, con la Maratona di Milano, e poi però fu prodotto dal Teatro dell'Elfo, Elio De Capitani, Ferdinando Bruni videro uno spettacolo fatto da me, poi sapevano che Bebo era l'attore che faceva questo spettacolo e l'hanno inserito nella loro programmazione, l'hanno prodotto, e diciamo che Bebo Stolti è l'interprete di questo testo. Qualche volta lo faccio anch'io in situazioni un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù, però in generale lo fa lui ed è, diciamo così, anche il physique du rôle per questo ruolo qui, adatto, giusto, oltre che essere un... che molti conoscono Bebo Stolti come attore comico, ma invece lui fa parte di quella tradizione dei teatri dei attori comici che quando si cimentano sul tragico sono molto più bravi, diciamo sono bravi altrettanto se non di più degli attori cosiddetti tragici e drammatici, e quindi è Bebo Stolti che lo interpreta meravigliosamente. Fa un po' paura anche a me, perché c'è un certo punto dello spettacolo che lui parla di oggi, cioè dice che oggi un fascista fa parte di un gruppo di cittadini dell'ordine ed elenca le persone con le quali si accanisce, e in quel momento lì entra proprio a fare, scende dal palco, va in mezzo al pubblico. Ecco, devo dire che fa incute un po' timore, se non paura, insomma, ecco. Bebo poi ci conosciamo da una vita, abbiamo fatto quasi a scuola insieme, lui era un anno prima, io un anno dopo, è dall'87 che lavoriamo insieme sul palco, io come regista autore e lui come attore. Certo, quindi tutto ciò sarà protagonista da giovedì a domenica a Teatri di Vita. Noi ringraziamo tantissimo Renato Sarti, regista di Mai Morti, e gli diamo appuntamento a un altro incontro per la nostra rubrica In Scena. Grazie Renato, buona giornata. Grazie a voi, arrivederci. ascoltando un po' di musica sotto le parole di Renato Sarti per mettere una base di accompagnamento, The Wayne Shorter Quartet, un quartetto che diventerà terzetto, classico ma non troppo, piano, basso e batteria, da Danilo Perez, John Patitucci, grande contrabbassista, e Brian Blade, faranno una nuova formazione che si chiamerà Children of the Light. Children of the Light con tutta l'originalità e il modern jazz, il gioco e allo stesso tempo la ricerca, saranno sul palcoscenico di Paradiso Jazz. Ne sapremo di più dalle 11.30 alle 12.30 con Jazz Live, Alfredo Pasquali e Valeria Sacco, per dare anche in questo caso un'anteprima all'inizio settimana. Inizio settimana di solito in jazz, Erika. Sì, sì, è vero. Col Torrione, con Paradiso, siamo molto molto contenti di poter proporre queste colonne sonore, secondo me, di grande classe e grande valore. Ci avviciniamo al 25 aprile, tornando ai contenuti dell'intervista, quindi un motivo di riflessione oltre che di ricorrenza, un motivo di riflessione insieme a Radio Città Fujiko anche per la giornata stessa nella festa al Pratello. Vi invitiamo, noi ci saremo e ovviamente vi aspettiamo. Fuori onda Erika hai detto cose interessanti e importanti. Esatto, sì, volevo ricordare un'iniziativa che è stata presa quest'inverno dal Comune di Bologna, ovvero è stata approvata una mozione che vieta che vengano concesse delle sale e dei luoghi comunali, quindi pubblici, a tutte quelle organizzazioni o associazioni che si richiamano in qualche modo all'ideologia, ai simboli fascisti e reazionari. E penso anche che sia un'iniziativa molto molto bella, e anche in questo modo si possono prevenire e combattere, come diciamo, per non abbassare mai la guardia. L'importante è poi applicarle, visto che le leggi ci sono. Esatto. Questo sarebbe, se no non contano. Andiamo in pubblicità, ascoltiamo ancora un po' di musica con i Children of the Light, in questo caso con Wayne Shorter al sax soprano, Without a Net, senza rete il brano. Noi invece in frequenza ritorniamo dopo lo spot pubblicitario. A tra poco. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. When it seems your friends desert you, there's somebody thinking of you. I'm the one who will never hurt you. Maybe that's because I love you. Call me, don't be afraid, you can call me. Maybe it's late, but just call me. Tell me and I'll be around. Now don't forget me, 'cause if you let me, I will always stay by you. You gotta trust me, that's how it must be. There's so much that I can do. If you call, I'll be right with you. You and I should be together. Take this love I long to give you. I'll be at your side forever. Call me, please call me. Call me, tell me and I'll be around. Con questa musica molto anche dattilografa anni 60, quella che alla sera va a prendere l'aperitivo dopo il lavoro. Sì, esattamente, c'era uno sketch di Jerry Lewis in cui imitava la dattilografa. Secondo me geniale, no? Nulla da imitare, in questo caso abbiamo l'originale con Erika qua sui 103.1 per In Scena, la rubrica Casta Sipario sui 103.1 con due voci, raddoppia per un altro spettacolo dopo Teatri di Vita, ITC Teatro. È una rassegna, è un progetto, è una nuova idea. Secondo te cos'è questa realtà che andiamo a presentare, Erika? Beh, sicuramente un evento che promette bene, questo sì, sicuramente. Sono d'accordo. E il nome di questo progetto ibrido, chiamiamolo così, è Le Botteghe della Fiducia, e si tratta proprio di una collaborazione teatrale tra la compagnia di teatro dell'Argine, che appunto è operativa, attiva a ITC Teatro, e un'organizzazione di volontariato no profit che si chiama Anteas. In cosa consiste questo progetto? I volontari di Anteas in diverse città italiane, tra le quali anche Bologna, saranno presenti in alcuni musei, in questo caso a Palazzo Pepoli, e si esibiranno in dei brevi sketch dove racconteranno la loro esperienza di volontariato. E perciò il teatro serve anche a raccontare appunto quanto è bello dedicare il proprio tempo alle persone in difficoltà anche. Esatto, la quotidianità, sì. E infatti ognuno di noi, secondo me, è un libro, è uno spettacolo, è una storia che vale la pena raccontare, e raccontare serve a sua volta anche a saper ascoltare. Grazie Andrea Paolucci ai nostri microfoni. Cerchiamo di saperne di più a proposito di queste Botteghe della Fiducia. Di cosa si tratta? Allora, è un progetto molto particolare che siamo stati molto contenti di fare insieme ad Anteas. Allora, innanzitutto, chi è Anteas? È un'associazione che io non conoscevo, che racchiude dentro di sé quasi 600 altre associazioni di volontari. Sono 80.000 i volontari di questa associazione che su tutto il territorio nazionale si occupano di regalare qualche ora agli altri. Un'altra particolarità è che sono tutti un po' anzianotti questi volontari, perché nasce da una volontà del sindacato della pensionati della CISL, che ha messo insieme un po' appunto di gente che voleva regalare qualche ora della propria giornata a chi aveva bisogno. Negli anni questa associazione è riuscita a coprire, come spesso succede col volontariato in Italia, moltissime zone, non solo geograficamente parlando, ma proprio di bisogno, zone di bisogno che tutti i nostri territori hanno. Persone da portare in ospedale per fare gli esami che non hanno possibilità di farlo da solo, banchi alimentari, i progetti di tenuta in attività di persone anziane che magari non hanno la famiglia che li aiuta. Insomma, c'è un'Italia bella che si dà da fare, regala del tempo agli altri, e Anteas ci ha chiesto di provare a raccontare tutto questo all'esterno attraverso un progetto teatrale. E così nasce questo strano Le Botteghe della Fiducia, che avrà tre appuntamenti. Il primo è proprio a Bologna, poi andremo a Padova, poi a Trani, con tre spettacoli simili ma diversi, perché in ogni città noi siamo stati qualche giorno, abbiamo incontrato questi volontari, li abbiamo intervistati, ci hanno raccontato le loro storie, e noi abbiamo preso, come avevamo già fatto ai tempi, le parole della città, tutte queste storie le abbiamo fatte diventare dei piccoli radiodrammi. Gli spettatori, a cominciare appunto dal debutto dello spettacolo a Bologna, la domenica, ascolteranno con delle audioguide, quelle tipiche da museo, queste storie camminando liberamente per il museo della città. Tra l'altro abbiamo avuto una bellissima collaborazione appunto con la Fondazione Bologna, con la Fondazione Carismo, con Genes Bononi, che ci mette a disposizione il museo della città, e quindi cammineranno gli spettatori dentro il museo. Ogni tanto troveranno questi volontari che non ci hanno solo raccontato le storie, ma le hanno anche registrate, hanno messo la loro voce a nostra disposizione, e verranno loro a recitare piccole azioni dentro il museo che il spettatore ascolterà le loro storie in pubblico. È un progetto che ci fa particolarmente piacere fare, anche perché si inserisce un po' in quel contesto più generale di lavoro, così, di sguardo sulla città, che da qualche anno sta un po' contraddistinguendo parte della nostra attività artistica e progettuale. Guardare la città, vedere le cose belle e insieme alla città provare a fare un teatro che possa esaltare questa bellezza. L'abbiamo fatto appunto per parlare della città per i nostri 20 anni, l'abbiamo fatto l'anno scorso con Futuri Maestri, portando in scena 1000 ragazzi che ci hanno raccontato la loro visione del mondo. Proviamo adesso a farlo con questi anziani, che gli anziani hanno giusto la carta d'identità, perché è gente che parte la mattina alle 6 per fare del bene ai vicini di casa e torna mezzanotte a casa. Insomma, è veramente bella gente a cui ci fa piacere provare a dare una voce teatrale per raccontarsi. Quindi si conferma l'idea che ogni persona è un libro, è un'esposizione, è un'opera teatrale e la sua vita è un palcoscenico, è una scrittura, è una narrazione. Si conferma questo come filo conduttore di base? Assolutamente sì, hai esattamente, come dire, delineato la linea che cerchiamo di perseguire in questi anni, perché è così, perché c'è questa bellezza. Non vogliamo essere buonisti, non vogliamo essere retorici, non vogliamo essere romantici, però in questo momento storico dove effettivamente molte cose sono cupe, scure e poco chiare, ci sono però delle isole di bellezza, e allora c'è bisogno ogni tanto anche di metterle a valore, di mostrarle, di indicarle, di raccontarle. Ognuno di noi ha un pezzo della propria giornata in cui, come dire, fa i conti con se stesso e cerca di capire che ci sta a fare questo mondo. Alcune di queste persone hanno trovato una risposta a questa domanda regalando veramente del tempo agli altri. Tra l'altro, vedendo su questo progetto, c'è stata anche la possibilità appunto veramente di andare da nord a sud e di incontrare volontari di tutte le estrazioni, come dire, geografiche, di tutti gli accenti, eccetera. E c'è veramente una Italia trasversale, sotterranea, con parole chiave comuni, con valori condivisi, che senza troppa, come dire, pubblicità si rimbocca le maniche, esce e fa del bene. Sono cose che a noi, che magari ci domandiamo tutti i giorni a cosa serve quello che stiamo facendo, il teatro, no? In un contesto come il nostro, che senso ha ancora provare a raccontare il mondo attraverso un'arte che oggi si confronta con altri linguaggi, con tempi molto più veloci. Ecco, quando troviamo queste sacche di bellezza nei nostri territori, capiamo che il teatro invece può essere esattamente lo strumento per guardarci dentro, per capire i meccanismi, per smuovere delle leve. Le Botteghe della Fiducia saranno in scena al Museo della Storia di Bologna, ovvero Palazzo Pepoli, domenica 15 aprile alle 16. Diciamo che lo spettacolo durerà un'ora, forse non cambierebbe il mondo con quell'ora, ma sicuramente sarà un'ora di bellezze, di rivelazioni, di epifanie. E poi tutto questo proveremo a rifarlo a Padova con altri volontari, con quelli di Antea Padova, e a Trani con Antea Spuglia. E poi tutti questi volontari sono 20 attori che debuttano domenica, poi altri 20 a Padova e altri 20 a Trani, tutti e 60 convergeranno a Riccione il 29-30 maggio per un mega spettacolo. A questo punto staremo lì 2 giorni, in cui tutte e 60 queste storie, tutte queste 60 volontari, si metteranno a disposizione della città e chi vorrà potrà venire a passeggiare dentro il Palazzo del Turismo di Riccione per ascoltare storie veramente bellissime, e chissà che poi qualcuno non abbia voglia, dopo aver visto lo spettacolo, anche di avere qualche informazione in più su Antea e di iscriversi dedicando appunto qualche ora ai tanti servizi che questa associazione fa. Certo, si aggiunge un'altra realtà bellissima e noi siamo ben contenti di essere una delle voci radiofoniche di TC Teatri dell'Argine, in quanto già con Bottega della Fiducia, ma se facciamo un salto indietro con le Case del Popolo, tra l'altro, che ha portato un importante appuntamento per far conoscere, certo, qualcosa legato alla tradizione, ma soprattutto qualcosa che rompe i confini e che fa raccontare alle persone quello che sono veramente, senza avere il timore né di essere troppo esibizionisti, ma neanche di essere giudicati, semplicemente per la voglia di comunicare con altre persone. Io, Andrea, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e ti do appuntamento a un altro incontro sempre sui 103.1. Grazie infinitamente, Andrea. Grazie mille a te e a voi. Buona giornata. È arrivato il momento di svelare il segreto dell'acconciatura di Erika al pubblico. Dai, qualche consiglio, alleggeriamo un po', peraltro oggi contenuti come al solito. Sai che la nostra colazione non ti porta a preferire Pandoro o Panettone, scrivetecelo al 333-180-9494 oppure costume intero o bikini, ma speriamo di proporre qualcosa di diverso, diversamente normale, cioè che sia una quotidianità alternativa a quello che tanti altri invece pensano sia banale originalità. Mi permetto, almeno il filo conduttore, la linea editoriale della prima colazione è questa: è meglio una genuina colazione in pensioncina a 2 stelle piuttosto che qualcosa di più elaborato ma che magari alla fine ti lascia la fame, no? Quindi torniamo al discorso della tua acconciatura, via! Allora, niente, c'è una ciambellina. Ah, vedi, siamo a colazione. Esatto. Bene, grande. Restiamo in tema, c'è questa ciambellina di plastica molto morbida. E niente, ci si fa una coda, una normalissima coda di cavallo. Chi può? Chi può? Quindi signora... non William Piana. No. Ma Erika Verdecchio, quindi chi può si fa la coda di cavallo e inserisce la coda all'interno della ciambellina. Inserisce la coda. So, linguaggio tecnico. Tecnico, esattamente. E poi dopo come si chiude tutto poi ciò? Poi dopo tutti i capelli... Vai, vabbè, ascoltiamo. Tutti i capelli si adagiano sopra questa ciambellina, dopodiché si bloccano, si fermano con un elastico e i capelli in eccesso si mettono attorno con una treccia oppure... Chiudono tipo elastico. Chiudono tipo elastico e voilà, la crocchia è fatta. Oh... Ed è pronta da servire dopo 2 minuti di frigo. Vabbè, chi ha il faccione più predisposto al sé e l'Edipo enciclopedico tagliato a metà, aspetta. No, dai, Edipeo, il venerdì. Chi ha il faccione è più predisposto al sesso. Giuro, sto leggendo testualmente, non lo so. Era meglio la tua crocchia, devo essere sincero. Decisamente, la crocchia da dattilografa. Da dattilografa. Noi torniamo venerdì prossimo, sempre con Erika, ci sarai venerdì, sì e come. Certo. Mica abbandonarci. Per raccontare, alzare nuovamente il sipario sui 103.1. Tra pochissimo Radio Zanardi, Radio Bullet e Rassegna Stampa con Alfredo Pasquali e Stefano Cotignola. A seguire Elisa Iacobucci, Chi fa da sé fa per te, Jet Live con Valeria Sacco, con Il Torrione e soprattutto con Paradiso Jazz con Alfredo Pasquali e William Piana. A seguire Iskra e GR, le notizie della giornata, e in conclusione il Last Minute. Grazie per aver fatto colazione con noi, vi hanno servito e offerto questo breakfast William Piana e Erika Verdecchio. Ciao a tutte, ciao a tutti, buon weekend, non dimentichiamo buon weekend. Questo. Buon weekend.